terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Un sabato Mario non venne, come sempre, da Ivrea e neppure comparve la domenica. Mia madre però non stava in pensiero perché già altre volte non era venuto. Pensò che fosse andato a trovare quella sua amante così magra in Svizzera. Il lunedì mattina vennero Gino e la Piera a dirci che Mario era stato arrestato sul confine svizzero insieme a un amico. Il luogo dove l'avevano arrestato era Ponte Tresa e non si sapeva altro. Gino aveva avuto questa notizia da qualcuno della filiale Olivetti di Lugano. Mio padre quel giorno non era a Torino e arrivò la mattina dopo. Mia madre ebbe appena il tempo di raccontargli cos'era accaduto. Poi la casa si riempì di agenti di questura venuti a fare una perquisizione. Non trovarono nulla. Noi, il giorno prima, con Gino, avevamo guardato dentro i cassetti di Mario se non c'era qualcosa da bruciare, ma non avevamo trovato nulla, se non tutte le sue camicie, la sua robina, come diceva la mia zia Drusilla. Gli agenti se ne andarono e dissero a mio padre che doveva seguirli in questura per un accertamento. Mio padre, la sera, non era ancora rientrato, e così capimmo che l'avevano messo in carcere. Gino, tornato a Ivrea, era stato arrestato là e poi trasferito anche lui alle carceri di Torino. Poi Adriano venne a dirci che Mario, passando per il Ponte Tresa in automobile con quel suo amico, era stato fermato da guardie della dogana che cercavano sigarette e queste avevano perquisito l'automobile e vi avevano trovato opuscoli antifascisti. Mario e il suo amico erano stati fatti scendere e le guardie li stavano accompagnando al posto di polizia e passavano lungo il fiume. Mario d'un tratto s'era svincolato, s'era buttato nel fiume vestito com'era e aveva nuotato verso il confine svizzero. Guardie svizzere, all'ultimo, gli erano venute incontro con una barca. Ora Mario era in Svizzera, in salvo. Adriano aveva il suo viso della fuga di Turati, il suo viso felice e spaventato dei giorni del pericolo, e mise un'automobile e un autista a disposizione di mia madre, che però non sapeva cosa farne, non sapendo dove andare. Mia madre ogni momento giungeva le mani e diceva, tra felice, ammirata e spaventata, «In acqua, col paltò!» Quell'amico che s'era trovato con Mario a Ponte Tresa e che aveva l'automobile, Mario né aveva l'automobile né sapeva guidare, si chiamava Sion Segre. Noi l'avevamo visto a volte per casa con Alberto e Vittorio. Era un ragazzo biondo, sempre un po' curvo, dalla riamita e pigra. Era amico di Alberto e Vittorio e che conoscesse anche Mario, non lo sapevamo. La Paola, venuta subito in automobile da Milano, ci disse che lei però lo sapeva. Mario s'era confidato con lei. Di quei viaggi fra Italia e Svizzera con opuscoli, Mario, insieme a quel Sion Segre, ne aveva fatti già molti e gli era sempre andata liscia. E così era diventato sempre più ardito. Aveva riempito sempre più l'automobile di opuscoli e di giornali e aveva messo in disparte ogni regola di prudenza. Quando s'era buttato nel fiume, una guardia aveva tirato fuori la pistola, ma un'altra guardia aveva gridato di non sparare. Mario doveva la vita a quella guardia che aveva gridato così. Le acque del fiume erano molto agitate, ma lui sapeva nuotare bene. E all'acqua gelata c'era abituato, perché infatti, ricordò mia madre, durante una di quelle sue crociere aveva fatto un bagno nel mare del nord in compagnia del cuoco del bastimento e gli altri passeggeri guardavano dal ponte e applaudivano. E anzi, quando avevano saputo che Mario era italiano, s'erano messi a gridare «Viva Mussolini!». Tuttavia, in quel fiume Tresa, all'ultimo, stava quasi perdendo le forze, impacciato com'era dai vestiti e forse per l'emozione. Ma allora le guardie svizzere gli avevano mandato incontro la barca. Mia madre, giungendo le mani, diceva «Chissà se quella sua amica così magra in Svizzera gli darà da mangiare». Thank you. Sion Segre si trovava ora in carcere a Torino. Gli avevano arrestato anche un suo fratello. Avevano arrestato Ginsburg e molta gente che era stata in rapporti con Mario a Torino. Vittorio, lui, non era stato arrestato. Era, disse a mia madre, stupito perché usava a frequentare tutte quelle persone. E la sua lunga faccia dal mento prominente era pallida, tesa e perplessa. Andavano e venivano, lui e Alberto, venuto a casa per pochi giorni in licenza, sul corso Re Umberto. Mia madre non sapeva come fare per far avere a mio padre in carcere biancheria e roba da mangiare, e poi era ansiosa di qualche notizia. Mi disse di cercare nella guida telefonica il numero dei parenti di Segre, ma quel Segre era orfano e non aveva nessuno, salvo quel fratello, arrestato anche lui. Mia madre sapeva che quei ragazzi Segre erano cugini di Pitigrilli e mi disse di telefonare a Pitigrilli per sapere come si regolava lui stesso e se avrebbe portato in carcere i suoi cugini biancheria e libri. Pitigrilli rispose che sarebbe venuto a casa nostra. Pitigrilli era un romanziere. Alberto era un grande lettore dei suoi romanzi e mio padre, quando trovava per casa un romanzo di Pitigrilli, sembrava che avesse visto un serpente. «Lidia, nascondi subito quel libro!» urlava. Difatti, aveva grande timore che io potessi leggerlo, essendo i romanzi di Pitigrilli niente adattati per me. Pitigrilli dirigeva anche una rivista chiamata Grandi Firme, anche quella sempre presente nella stanza di Alberto, legata in grossi fascicoli nei suoi scaffali insieme ai libri di medicina. Pitigrilli arrivò dunque a casa nostra. Era alto, grosso, con lunghe basette nere e grigie, con un grosso paltò chiaro che non si tolse, sedendo in poltrona gravemente e parlando a mia madre con tono austero, con accento di composto cordoglio. Era stato in carcere una volta, anni prima, e ci spiegò ogni cosa. I cibi che si potevano far avere ai detenuti in certi giorni della settimana e come bisognava a casa sgusciare noci e nocciole, sbucciare le mele, gli aranci e tagliare il pane a fettine sottili perché in prigione non era possibile avere coltelli. Ci spiegò ogni cosa e poi si trattenne ancora a conversare garbatamente con mia madre, le gambe accavallate, il grande paltò sbottonato, le folte sopracciglia aggrottate sulla fronte. Mia madre gli disse che io scrivevo novelle e volle che io gli mostrassi un mio quadernetto dove avevo ricopiato in accurata calligrafia le mie 3 o 4 novelle. Pitigrilli, sempre con quella sua aria misteriosa, altera e contristata, lo sfogliò un poco. Poi arrivarono Alberto e Vittorio e mia madre li presentò a Pitigrilli tutte e due. E Pitigrilli uscì in mezzo a loro, sul corso Re Umberto, col suo passo pesante, l'aria altera e contristata, il grande e lungo paltò sulle spalle. Mio padre rimase in carcere, mi sembra, 15 o 20 giorni. Gino, 2 mesi. Mia madre andava al mattino alle carceri con un fagotto di biancheria e con pacchi di aranci sbucciati e di noci sgusciate, in quei giorni che si poteva portare del cibo. Poi andava in questura. Veniva ricevuta a volte da un certo Finucci e a volte da un certo Lutri, e questi due personaggi le sembravano potentissimi, le sembrava avessero in mano le sorti della nostra famiglia. «Oggi c'era il Finucci», diceva tornando a casa tutta contenta, perché il Finucci l'aveva rassicurata e le aveva detto che a carico di mio padre e di Gino non c'era nulla e che presto li avrebbero messi fuori. «Oggi c'era il Lutri», dicevo ugualmente contenta, perché il Lutri era di maniere ruvide, ma, pensava mia madre, di indole forse più sincera. Si sentiva poi lusingata dal fatto che entrambi quei personaggi ci chiamassero tutti per nome e sembrassero conoscerci tutti a fondo. Dicevano Gino, Mario, la Piera, la Paola. Di mio padre dicevano il professore. E quando lei gli spiegava che era un uomo di scienza e che mai si era occupato di politica e pensava soltanto alle sue cellule dei tessuti, loro annuivano e le dicevano di stare tranquilla. Mia madre, tuttavia, a poco cominciò a spaventarsi perché mio padre non tornava a casa e Gino neppure. E poi, a un certo punto, uscì sul giornale un articolo con questo titolo in grande: «Scoperto a Torino un gruppo di antifascisti in combutta con i fuoriusciti di Parigi». «In combutta», ripeteva mia madre angosciata, e quella parola «in combutta» le suonava carica di oscure minacce. Piangeva in salotto, circondata dalle sue amiche, la Paola Carrara, la Francis, la signora Donati, e le altre più giovani di lei e che lei usava proteggere, assistere e consolare quando erano senza soldi o quando i mariti le sgridavano. Ora erano loro ad assisterla e a consolarla. La Paola Carrara diceva che bisognava mandare una lettera al Journal de Genève. «Io l'ho scritto subito alla Gina», diceva. «Ora vedrai che uscirà una protesta sul Journal de Genève». «È come l'affare Dreyfus», non faceva che ripetere mia madre. «È come l'affare Dreyfus». C'era sempre in casa un andirivieni di gente, tra la Paola, Adriano, Terni, che era venuto apposta da Firenze, e la Francis e la Paola Carrara. La Piera, allora in lutto del suo proprio padre e incinta, era venuta ad abitare da noi. La Natalina correva tra la cucina e il salotto portando tazze di caffè ed era eccitata e felice, essendo sempre felice quando c'era qualche trambusto, gente in casa, rumore, giornate drammatiche, scampanellate e molti letti da fare. Poi mia madre partì con Adriano per Roma, perché Adriano aveva scoperto che c'era a Roma un certo dottor Veratti, medico personale di Mussolini, il quale era antifascista e disposto ad aiutare gli antifascisti. Era però difficile arrivare a lui e Adriano aveva trovato due che lo conoscevano, Ambrosini e Silvestri, e sperava di raggiungerlo per mezzo loro. Restammo sole in casa con la Natalina, la Piera e io. E una notte fummo svegliate da una scampanellata e ci alzammo piena di spavento. Erano dei militari che venivano a cercare Alberto, allievo ufficiale a Cuneo. Non era rientrato in caserma e non si sapeva dove fosse. Poteva essere processato, diceva la Piera, per diserzione. Almanaccammo tutta la notte dove poteva essere finito Alberto e la Piera pensava che si fosse spaventato e fosse scappato in Francia. Ma Vittorio il giorno dopo ci disse che Alberto era semplicemente andato a trovare una ragazza in montagna. Aveva passato il tempo con lei, schiando tranquillamente e scordandosi di rientrare in caserma. Adesso era tornato a Cuneo ed era stato messo agli arresti. Mia madre tornò da Roma sempre più spaventata. Si era però anche in qualche modo divertita a Roma, perché i viaggi la divertivano sempre. Erano stati lei e Adriano ospiti in casa di una certa signora Bondi, cugina di mio padre, e avevano cercato di entrare in contatto, oltre che col dottor Veratti, anche con Margherita. Margherita era una delle tante Margherite e Regine che facevano parte della parentela di mio padre, ma questa Margherita era famosa essendo in amicizia con Mussolini. Tuttavia mio padre e mia madre non la vedevano da molti anni. Mia madre non aveva potuto incontrarla perché non si trovava a Roma in quel periodo e nemmeno era riuscita a parlare col dottor Veratti. Ma quei due, Silvestri e Ambrosini, avevano dato speranze. E Adriano aveva un altro informatore, un mio informatore, diceva sempre, che gli aveva detto che tanto mio padre come Gino sarebbero usciti presto. Tra le persone arrestate, i soli veramente compromessi e che si diceva sarebbero stati processati erano Sion Segre e Ginsburg. Mia madre non faceva che ripetere: «È come l'affare Dreyfus». Poi, una sera, mio padre ritornò a casa. Era senza cravatta e senza lacci alle scarpe perché in carcere li toglievano. Aveva sotto il braccio un fagotto di biancheria sporca incartata in un foglio di giornale. Aveva la barba lunga ed era tutto contento d'essere stato in prigione. Gino, invece, rimase dentro ancora 2 mesi. E un giorno che mia madre e la madre della Piera andavano a portargli alle carceri biancheria e roba da mangiare in un taxi, capitò che questo taxi andasse a scontrarsi con un'altra macchina. Né mia madre né la madre della Piera si fecero nulla, ma si ritrovarono sedute nel taxi fracassato coi loro pacchi sulle ginocchia, col tassista che imprecava, tutta la folla di gente intorno e guardie. Erano a pochi metri dal carcere e mia madre aveva solo paura che la gente capisse che loro andavano al carcere con quei pacchi e le credesse parenti di qualche assassino. Adriano, quando gli raccontarono il fatto, disse che certo, nella costellazione di mia madre c'era qualche scontro di astri e per questo le toccavano in quel periodo tante e così pericolose avventure. Poi anche Gino fu liberato e mia madre disse: «Ora si ricomincia con la vita noiosa». Thank you. Mio padre s'era infuriato sapendo di Alberto, che era agli arresti e rischiava di andare al tribunale di guerra. «Ma scalzone!» diceva. «Mentre la sua famiglia era dentro, lui se ne andava con le ragazze a schiare!» «Sono preoccupato per Alberto», diceva svegliandosi nella notte. «Non è mica uno scherzo se lo passano al tribunale di guerra!» «Sono preoccupato per Mario», diceva. «Sono molto preoccupato per Mario. Cosa farà?» Mio padre era però felice di avere un figlio cospiratore. Non se l'aspettava e non aveva mai pensato a Mario come a un antifascista. Mario usava dargli sempre torto quando discutevano e usava parlar male dei socialisti di un tempo cari a mio padre e a mia madre. Usava dire che Turati era stato un grande ingenuo e che aveva infilato sbagli su sbagli. E mio padre, che anche lui lo diceva, quando lo sentiva dire da Mario s'offendeva a morte. «È fascista?» diceva a volte a mia madre. «In fondo è un fascista!» Ora non poteva più dire così. Ora Mario era diventato un famoso fuoriuscito politico. Tuttavia a mio padre dispiaceva che il suo arresto e la sua fuga fossero avvenuti mentre Mario era un impiegato della fabbrica Olivetti, perché temeva che avesse compromesso la fabbrica, Adriano e il vecchio ingegnere. «Lo dicevo io che non doveva entrare alle Olivetti!» urlava a mia madre. «Ora ha compromesso la fabbrica!» «Com'è buono Adriano!» diceva. «Si è dato tanto da fare per me! È molto buono! Tutti gli Olivetti sono buoni!» La Paola ricevette, sempre attraverso non so che filiale Olivetti, un bigliettino scritto nella nota calligrafia di Mario, minuscola e quasi illeggibile. Il bigliettino diceva così: «Ai miei amici vegetali e minerali. Sto bene e non ho bisogno di niente». Sion Segre e Ginzburg furono processati al tribunale speciale e condannati uno a 2 anni, l'altro a 4. La pena fu però dimezzata per un'amnistia. Ginzburg fu mandato al penitenziario di Civitavecchia. Alberto non fu poi passato al tribunale di guerra e tornò a casa dal servizio militare e ricominciò a passeggiare sul corso insieme a Vittorio. E mio padre gridava «Mascalzone, farabutto!» quando lo sentiva rientrare, e gridava così a qualunque ora lo sentisse rientrare, per abitudine. Mia madre riprese le lezioni di pianoforte e il suo maestro, uno coi baffetti neri, aveva una gran paura di mio padre e sgusciava lungo il corridoio con gli spartiti in punta di piedi. «Non posso soffrire quel tuo maestro di piano!» urlava mio padre. «Ha un'aria equivoca!» «Ma no, Beppino, è tanto un bravo uomo, vuole tanto bene alla sua bambina!» diceva mia madre. «Vuole bene alla sua bambina, le insegna il latino! È povero!» Aveva lasciato il russo, mia madre, non potendo più prendere lezioni dalla sorella di Ginzburg, perché sarebbe stato compromettente. Erano entrate in casa nostra nuove parole. «Non si può invitare Salvatorelli, è compromettente», dicevamo. «Non si può tenere in casa questo libro, può essere compromettente, possono fare una perquisizione». E la Paola diceva che il nostro portone era sorvegliato, che c'era sempre là, fermo, un tipo con l'impermeabile, e che si sentiva pedinata quando andava a spasso. La vita noiosa, del resto, non durò molto, perché un anno dopo vennero a casa ad arrestare Alberto, e si seppe che avevano arrestato Vittorio e di nuovo tanta altra gente. Vennero al mattino presto, erano forse le 6 del mattino, cominciò la perquisizione, e Alberto era là, in pigiama, tra 2 agenti che lo sorvegliavano, mentre altri scartabellavano tra i suoi libri di medicina, le grandi firme e i romanzi gialli. Io ebbi da quegli agenti il permesso di andare a scuola e mia madre, nel vano di una porta, mi infilò dentro la cartella le buste dei suoi conti perché aveva paura che nel corso della perquisizione cadessero sotto gli occhi a mio padre e che lui la sgridasse perché spendeva troppo. «Alberto, hanno messo dentro Alberto, ma Alberto non si è mai occupato di politica», diceva mia madre sbalordita. Mio padre diceva: «L'hanno messo dentro perché è il fratello di Mario, perché è mio figlio, mica perché è lui». Thank you.